Friuli nel mondo, 193esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando Arturo Zardini. Il Friuli, ed in particolare Pontebba, che gli diede i natali, hanno celebrato in questi giorni il primo centenario della nascita di Arturo Zardini, il grande compositore che ha esaltato la piccola patria friulana con tante stupende villotte, fra le quali spiccano il canto preghiera di Stelutis Alpinis e un salute Furlanie, che è diventato, si può dire, l'inno ufficiale del Friuli. Dall'illustre maestro vi trasmettiamo, cari amici lontani, le più belle e significative composizioni. Stelutis Alpinis, un salute Furlanie, l'Emigrant, in Cil, l'Istelis, notopus Didino. Let Hanno cantato nell'ordine il coro di San Giorgio di Nogaro, diretto da Bruno Sebastianotto, il quartetto Stella Alpina di Cordenons, il complesso corale Odorico da Pordenone, diretto da Bepi Carone, la corale Zardini di Pontebba, diretta da Gino Piemonte, il gruppo corale Buie di Buia, diretto da Mario Monasso. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Armete Pelizzari.